fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Di nuovo un saluto a tutti, torniamo in diretta all'1:46 del mattino, sabato 10 novembre del 2018. Questa è Ristoradio Convento, ovviamente, e in Ristoradio Convento ospitiamo tutti coloro che hanno voglia di fare due chiacchiere con noi, vogliono raccontarci qualcosa e soprattutto diamo spazio ai festeggiati, ma non in questo caso perché abbiamo una coscrizione da celebrare insieme, quindi diciamo che festeggiano un po' tutti insieme. È come quando nel calcio si dice che vince l'amicizia e vince, esatto, il bel gioco. L'importante è partecipare. Bravo, l'importante è partecipare. Da dove venite, ragazzi? Da Malcesine. Lago di Garda. E cosa festeggiate? Siamo qui per la cena di classe del 95. Oh, 95, bello, 1995. Ok. Aspetta che ti... Ciao fotografo, no, grande! Bello che si crea questo rapporto con i nostri colleghi. Bellissimo. Cosa va fatto? Abbiamo fatto un set fotografico. Prima. Ah, l'album. Però abbiamo fatto un po' di casino, sai com'è. Ah, ok, infatti ho visto questo trasporto amoroso. Bello. Io ho un ricordo di Malcesine famoso per qualcosa, ma non mi viene in mente. Aiutatemi. Funivia Montebaldo, bravo, che porta? Porta sul Monte Baldo. Ah beh, certo, sul Monte Baldo. Una montagna dove ci sono belle camminate e due ottimi ristoranti. Beh, è assessore, vedi? Sembra il suo lavoro, quasi sindaco, assolutamente, lo potremmo candidare. Quindi Malcesine, lago e montagna però. Certo. Tutto. Lago, vela, sci, tutto. Qualsiasi bellissimo. Sport. Bellissimo. Bellissimo. Tra l'altro scusate perché io mi sono appuntato 1195 invece di 1995, quindi vi ho dato 800 anni in più. Buono. 800 anni in più. Vi portiamo bene. Esatto, vi tenete bene e li conserviamo nel modo giusto. E quindi bene, abbiamo detto, beh, vi trovate bene, immagino, ne parlate con un bel trasporto, ma del, sì, vostro, sì, paese. Certo, l'inverno un po' tranquillo, un po' più tranquillo, ma l'estate ci si diverte. Beh, però con la vicinanza della montagna può essere che ci sia un po' più traffico, un po' più quello giro. Sì, quello sicuramente. Giro, dai, diciamo. Ok, parliamo anche un po' della vostra classe, 1995 dicevamo, quindi 23 anni, 22, 23 anni. Solo qualità dici? Come mai? Perché siamo un bel gruppo e ogni anno ci troviamo due volte l'anno per festeggiare. Due? Avete anche delle date o dei periodi prestabiliti o quando capita? Quando capita, però fisso almeno due volte l'anno. Esattamente. Distanziate tra loro, molto vicine? No, distanziate, una volta a inizio stagione, una volta a fine stagione. Ok. Dipende dai lavori che si fa. Esatto. Vabbè, chiaro, però comunque riuscite a mantenere questa tradizione da quanto cinque tempo? Anni. Cinque anni. Anni. Quindi dai 18. Dai 18 in sostanza. Bello. Mi piace che vi troviate ancora così bene, anche perché immagino che tanti hanno preso strade diverse, magari ci sono spostati, però riuscite a mantenervi in uno il rapporto, due addirittura organizzare queste belle serate. Creare un bel numero, dai, diciamo. Quanti siete stasera? In 27. Urca! Quindi tantini. E tanti non sono venuti per problemi di lavoro, magari non ci sono. Chiaramente. A proposito di lavoro o studio, non lo so, voi che fate di bello? Io faccio l'idraulico. Io sono receptionist in un hotel. Ok. E beh, cavolo, due lavori completamente diversi. Cioè, nel senso, qui abbiamo le mani e qui abbiamo la voce, o comunque sia la comunicazione, beh, insomma, ci sta, la mente e il braccio. E l'hotel si trova, immagino, a Malcesine. Certamente. Ok, e come si chiama? Sailing Center. Sailings, come il sailing, la barca a vela. E da quanto lavori lì? Sono da 4 anni in quell'hotel e mi trovo benissimo. Sempre nello stesso ruolo? Certamente. Hai fatto anche le notti o solo di giorno? Faccio anche le notti quando serve. Quando serve? Hai, come dire, una cosa che già pianificavi da un po', che ti poteva piacere o che ho hai incontrato per caso? Ho fatto la scuola per diventare receptionist e più dopo ho trovato il lavoro dei miei sogni, quindi... Ah, ma aspetta, una scuola? Cioè, quindi c'è una scuola per diventare receptionist? Un turistico. Ah, ok, tipo alberghiero? Sì, però si imparano tanto le lingue. Ah, ok, no, spiegami un po' quali sono gli indirizzi specifici, le materie comunque specifiche per... Ho fatto... Cioè, in sostanza, cosa studi per diventare receptionist, al di là delle lingue che sono generiche però? Economia aziendale, diritto politico, diritto alberghiero comunque, e comunque tante altre lingue. E in più abbiamo fatto tanti progetti per lavorare in albergo. Ok, ho capito. Bene, adesso abbiamo parlato del sacro, chiamiamolo così, parliamo del profano. La cosa più strana che ti è capitata, la richiesta più strana che immagino ne avrai vissute così tante da avere già un libro da scrivere. Beh, soliti matrimoni che cerchino tante richieste strane. Ok. Bella una, quella che ti viene in mente così, che ti ha colpito, che ti ha... Adesso non mi viene in mente. Che ti ha scioccato, che no, non lui, so. Lui lo sa, lui sa tante cose. Lui. Via. Lui fa l'idraulico. Fa l'idraulico, ci sono mille robe, sono successe a lui. Sì, no, ma sicuramente. Io... Ah, hai aneddoti? Di tutto e di più si trova nei bagni. Vai, una, la prima, a caso. Nei primi scarichi, pannolini, bottiglie, di tutto e di più. Negli scarichi? Gli scarichi di PC, delle persone. Pannolini negli scarichi? Ma perché io comunque lavoro in un istituto di suore. Ah, ok. Castelletto Sacra Famiglia. Ok. Ah, sempre lì? Quelle case di cure, robe del genere. Sempre lì, quindi fisso? Fisso. 7 anni che sono lì. E come mai? Cioè di solito l'idraulico è noto per girare le case, il camioncino e così via. Diciamo che la mia ditta... Provarci con le mogli. Quello era più negli anni 90 però. No, anche cioè, ma lo stavo dicendo, ma è più negli anni 90. Ogni tanto con le suore. No, adesso è più il tecnico del computer, quello che ti viene a montare wifi, quelle cose lì. Si monta anche wifi. Però anni 90 idraulico sì, per eccellenza, no, assolutamente. Comunque la mia ditta ha un appalto per... questo istituto Sacre Famiglie e lavoro per loro. Okay. Ho fatto un professionale grazie allo stage, così mi ha tenuto. Ma vai a chiamata o fisso tutti i giorni ti presenti tutti lì? Tutti i giorni mi presento lì, ma ho diverse case perché ho 15 case da ok. Beh, quindi scusa, tu fai una sorta di ricognizione o sai, cioè ogni giorno c'è un problema da risolvere? Allora, diciamo che adesso... Perché immagino che se non ci sia, cioè, se non c'è, cioè, tutto va bene... Sì, no, tutto va bene, noi ci troviamo in un posto che è una casa qua a Castelletto di Brenzone, dove abito io, e lì ti partono le chiamate, se succede che c'è un guasto da qualche parte, si parte, si prende il furgone. Ok, chiaro, chiaro. E se no, cioè, come adesso stiamo facendo lavori, bagni nuovi, dipende. Da mesi, diciamo. E quello, dicevi, è un convento, è un... Un convento per suore, okay. Gestito da suore, dopo ci sono case di cure, anche per estranei. Okay. Quindi diciamo, stanze, tutte stanze singole? Tutte stanze singole, massimo 2 persone. Massimo 2 persone, che è un altro ambiente, anche questo molto molto particolare. Sì. Molto molto, molto particolare. Ok. Di preghiera. Beh, preghiera, assolutamente, assolutamente, ci sta. Volete salutare qualcuno dei vostri amici? Volete dire qualcosa? Salutiamo tutta la classe 95. Che è qua con noi e basta, quelli che ci conoscono. E ringraziamo per la festa che ci avete fatto. La festa molto... Bene. Vi stanno chiamando. Spesso. No, che magari era un intervento. Ah, intervento era la suora. Era una suora. Ah, no. E io speravo che avrei fatto il botto d'ascolti, che c'era una chiamata in diretta, che doveva andare a riparare un tubo che perdeva alle 2 del mattino di sabato, di sabato sera. Adesso non esageriamo. Ma no, beh, non ha la reperibilità. La reperibilità c'ho luglio, agosto, settembre. Vabbè, ma anche di sera. Sì. Cioè, le suore di sera ti vengono a chiamare per lo scarico. Allora, qualche servizio. Cioè, lui è normale, è logico che ce la possa avere. Ma tu? No, ma può essere che magari se si spacca un tubo così, che sono sotto acqua, diciamo, sì, ti possono chiamare. Ah, bene. Cose estreme, diciamo. Cose estreme. Va bene, allora, grazie ancora, anche perché vedo che i vostri amici giustamente vi reclamano in pista. Siamo, vi lasciamo liberi del gruppo. E vi salutiamo. Grazie ancora, ragazzi. Buona serata e buon divertimento. Number one, grazie.